Puntata numero 2 di Grandi Condottieri in Missione Svizzera, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Puntata numero 2... numero 2? Ma come, di già? Ma da quanto tempo è che sono qui in Svizzera? Da troppo tempo, per i miei gusti. E dai Maddalena, ammettilo che ti sei stancata di queste montagne innevate, delle mucche perenni e degli orologi di cioccolata. Almeno io ti ricordo le colline del Chianti, il pane senza sale, l'odore dell'erba appena tagliata e ammassata nelle rotoballe. Semmai mi ricordi il puzzo degli stalletti per i maiali. Anche quelli sono diffusi in Toscana. E tu da Comodori mi sa che ci vivi dentro. Ma sarà perché ora siamo anche in periodo di maialatura. Ma come ti permetti di dire certe cose davanti a una signora? Oi oi oi oi oi, come frizza! Giuro, non è una parolaccia! Il dizionario la definisce l'insieme delle operazioni occorrenti per preparare variamente le carni del maiale allo scopo di renderle commestibili, e anche il tempo durante il quale queste operazioni vengono effettuate. Si dice o non si dice in Toscana per San Tommè piglia il porco per lo piè? San Tommè, che è San Tommaso Apostolo, cade appunto il 21 di dicembre. Giorgio, insomma, basta di dire maialate, presenta il nostro ospite. È vero, eccolo che arriva. Ma chi è? Quel tizio con quel barbone che sembra un frate cappuccino che ha preso la scossa. E quei baffoni, ma che sono? Due manubri da bicicletta. Ma che cappuccino e caffè latte? Quella barba e quei baffi sono tagliati e acconciati secondo la moda in voga nell'impero austro-ungarico. Strano questo australopiteco. E comunque, ora che ci penso, chissà perché in Toscana San Tommaso, l'apostolo intendo, lo si chiama San Tommè come in Portogallo, e non si chiama Tommè San Tommaso Becket, che cade il 29 di dicembre. Ma... insomma basta, mi presento da solo. Sono Giuseppe Ferdinando Salvatore Maria Francesco Leopoldo Antonio Alberto Giovanni Battista Carlo Ludovico Roberto Maria Ausiliatrice d'Asburgo Toscana. A mappa che nome lungo! Lei, più che una carta d'identità, c'ha un volume della Divina Commedia! Più semplicemente sono Giuseppe Ferdinando d'Asburgo Lorena! E per gli amici, Ferdi? Silenzio, plebeo! Per te sono Sua Altezza Reale! Primo, perché sono Granduca di Toscana, e secondo, perché sono Arciduca d'Austria! Ma va, che il Granducato di Toscana è finito con l'Unità d'Italia! Gli stati-nazione passano, i titoli nobiliari restano. Comunque sia, sono figlio di Ferdinando IV, l'ultimo granduca regnante di Toscana. Ma vada a farsi un giro sulla ruota di Vienna. Lo sanno anche i briachi di Piazza Santo Spirito che l'ultimo granduca di Toscana fu Leopoldo II, detto Canapone. Giorgio, ha ragione lui! Leopoldo II, partito da Firenze nel 1859, a seguito di quella che in Italia chiamiamo Seconda Guerra d'Indipendenza, ma che i francesi chiamano Campagne d'Italie, arrivato a Vienna, abdicò in favore del figlio. La Toscana venne inglobata nel Regno di Sardegna solo alcuni mesi più tardi. Pertanto, Ferdinando IV fu formalmente Granduca regnante, anche se solo per qualche mese. Ehi ehi ehi ehi, fermi un attimo, che diavolo c'entra con la Svizzera un austriaco che di cognome fa Lorena, che è una regione della Francia ed è stato Granduca di Toscana? Di più, che cavolo c'entra con i grandi condottieri? Primo, per tua norma e regola ho combattuto la prima guerra mondiale e non da soldatino, ero generale della quarta armata sul fronte russo, forse il più impegnativo dell'intero conflitto. E come andò con i russi? Quelli son gente tosta da combattere. Ci hanno battuto il muso in tanti contro di loro. Dall'orda d'oro mongola a Napoleone, dalla Germania nazista ai georgiani e agli ucraini. E pare che ancora qualcuno non ne abbia avuto abbastanza. Ero io al comando durante l'offensiva Brusilov, dal nome del generale russo che la guidò. Forse il fatto d'armi più importante dell'intero conflitto e una delle più sanguinose battaglie di tutti i tempi. I numeri fanno spavento! 500.000 di soldati russi caduti! 1,5 milioni di soldati austriaci e tedeschi morti sul campo! Come si capisce dalle cifre, i russi vinsero la battaglia, sfondando le trincee nemiche e prendendo quasi 500.000 di prigionieri! Fui rimosso dal comando su richiesta dei tedeschi. Fui però appuntato ispettore generale dell'aviazione austro-ungarica, visto che ero un appassionato e un esperto di palloni aerostatici. Allora, più che un grande condottiero, lei fu un grande mongolfiero. L'arciduca si occupava soprattutto di produzioni di aerei. L'impero austriaco arrivò in 4 anni a produrre qualcosa come 5.000 velivoli. Beh, mica male! Malissimo invece! L'Italia da sola ne produsse 12.000 e in poco più di 3 anni! L'aviazione imperiale era specchio di un impero allo sfascio. Fu ostacolata dai vertici militari che rimanevano tradizionalisti e nostalgici di sciabole e cariche di cavalleria. Le industrie belliche, ma anche quelle civili, erano antiquate o troppo primitive. Scarseggiavano le materie prime e il ritardo tecnologico era schiacciante. Per esempio, a differenza delle altre aviazioni, a quella austriaca mancava il congegno per sincronizzare i colpi della mitragliatrice con le pale dell'elica. Quella guerra era persa in partenza, con o senza grandi condottieri. Senta, Sua Altezza Giulio Piero Orsini, Maria Dolores da Silva, Alberto Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé. Passi per il condottiero e mi permetta di mettere tra virgolette il grande. E passi pure per la Toscana, visto che il titolo effettivamente ce l'ha. Ma che c'entra la Lorena? La dinastia degli Asburgo-Lorena nacque con il matrimonio tra Maria Luisa d'Austria, che era un Asburgo, con Francesco III Stefano, che era lorenese. La Lorena, regione francofona, fu sostanzialmente ceduta dai due alla Francia, in cambio della Toscana, dove la dinastia dei Medici si era estinta. Fischi per fiaschi, ma come fa un lorenese nato a Nancy a barattare la sua terra per un'altra che c'entra poco o niente con la sua patria? All'epoca, alle famiglie regnanti interessava solo regnare. Non gli importava su chi! Prendi l'esempio dei Savoia. Nel 1713, a seguito della pace di Utrecht, ottennero la Sicilia, che permetteva loro di passare a essere re invece che semplici duchi. Così i Savoia divennero re di Sicilia. Poi nel 1720 la scambiarono con la Sardegna per essere re di Sardegna. 140 anni dopo, barattarono la loro stessa patria, la Savoia, per essere re d'Italia. Per di più, Francesco III Stefano e sua moglie in Toscana ci stettero pochissimo. Primo perché preferivano stare a Vienna piuttosto che a Firenze e poi, dopo la guerra di successione austriaca, Francesco fu fatto sacro romano imperatore, col nome di Francesco I e addio Toscana. Piuttosto peripatetici questi sovrani. Peripatetici in senso platonico? No, no, in senso biblico, cioè cambiavano i domini come se fossero mignotte. Maleducato, come osi dire parolacce davanti a una signora? Oh, Marimma che botta, ma che hai preso il mattarello adesso? Sei così schifosamente maschilista che gli schiaffi per te non sono più abbastanza. E che ho detto adesso? Ricordi Lorenzo il Magnifico? Quando si rubò i soldi del Monte delle Fanciulle, un ente di carità che aiutava le ragazze povere e senza dote, molte di loro furono costrette a prostituirsi. E oggi è cambiato molto poco! La mattarellata te la meriti anche per loro! Le colpe dei padri ricadranno sui figli, ho capito. Karma nero. Adesso però mi spiegate cosa c'entra un Asburgo di Lorena, di Toscana, con la Svizzera che sta da tutt'altra parte. Ottone d'Asburgo Lorena, e ti risparmio il nome completo, fu il capo della casa degli Asburgo dopo la morte di suo padre Carlo I, ultimo imperatore regnante sullo scomparso impero austro-ungarico. Fu oppositore del nazismo e contrario all'Anschluss e a Hitler. Riuscì a scappare in America prima che la Gestapo lo arrestasse, ma molti dei suoi cugini furono meno fortunati e finirono in campo di concentramento. Io stesso fui arrestato e sbattuto 3 mesi a Dachau, una prigionia che minò la mia salute irrimediabilmente, e la Gestapo mi tenne sotto stretta osservazione fino alla mia morte. Fu allora che il titolo di Granduca titolare di Toscana passò a mio fratello Pietro Ferdinando, che si era trasferito in Svizzera. Suo pronipote, l'attuale Granduca Sigismondo, è nato in Svizzera e abita ancora in Svizzera. Anche se passava le estati a Castiglion della Pescaia in provincia di Grosseto, come me. Già, ma lui in una villa e te in un campeggio. Noblesse oblige per lui, Les Misérables per te, mio caro Jean Valjean de Noatri. Ancora ti chiedi perché sei senza fidanzata? Non è tutto. Il fatto è che gli Asburgo non sono di origine austriaca, ma svizzera. Asburgo è l'italianizzazione di Habsburg, un castello dell'omonimo comune del cantone svizzero dell'Argovia, un paesino di poco meno di 500 abitanti sulle rive del fiume Are. La mia famiglia prese il nome da quel castello. Fecero lo stesso i Ricasoli. Ricasoli era un loro castello, nella terra di Montevarchi, appena sotto le colline del Chianti. Pensa che coincidenza! Partito un capo di stato Asburgo da Firenze, chi prese la reggenza dello stato toscano? Un Ricasoli! Il giochino del nome e del castello evidentemente porta fortuna. Il castello rimase sede della famiglia Asburgo fino al 1415, quando per una serie di vicende politiche e militari un po' complicate, Federico IV tasca vuota fu costretto a cedere l'Argovia e il castello alla Confederazione Svizzera. In compenso si tenne il Tirolo. Se le cose fossero girate altrimenti, ci sta che anche il Tirolo, da possedimento asburgico, sarebbe passato alla Svizzera e sarebbe oggi un cantone come il Ticino. In effetti, con Trento, Merano, Bolzano e Innsbruck alla Svizzera, la storia sarebbe stata molto diversa. Probabilmente l'Italia, alla Prima Guerra Mondiale, non avrebbe mai partecipato. Altro che, la storia sarebbe stata diversissima. Il mio bisnonno Giuseppe lo chiamavano in paese Beppe del Tirolo perché aveva fatto la Grande Guerra e era uno dei pochi fortunati a essere tornato vivo da quell'inferno. Il mio bisnonno, all'epoca della guerra, non era più giovanissimo ed era già rimasto vedovo della prima moglie. Proprio al fronte conobbe la sua seconda moglie, che poi fu la madre di mia nonna. Insomma, sei figlio della colpa degli Asburgo. D'altra parte, che ti aspettavi? Da un Federico Tascavuota è venuto fuori un Giorgio Testavuota. Did he die?